Marcolino Condo. Sì, sì. Sì, sì, qua. Buonasera, me. Ciao, Marino. Allora, tutto ok, sì. Ok. Stavo chiamando a Claudio, se c'era, ma forse non è all'ascolto. È andato a portare il cane, non lo so. Sicuramente sta andando a portare il cane a Pippo. Pippo si chiama, Filippo, come si chiama? Filippo è un cane, se lo vedi, è bello, bello robusto, bello, bello, bel cane, veramente. Mezzo leone, eh? Anche lui ha bisogno di uscire la sera bisogna uscire, il mio oggi è a casa, è uscito poc'anzi, ha fatto il giro della campagna e poi è rientrato. Questo è un cane corso, mi adesso la prossima settimana se ne va in Germania, c'hanno la gara da mercoledì, beh, mercoledì parte, davanti. Ah, fai giambo, Marino, ti tocca a Filippo. Ah, Filippo, buonasera Claudio, Filippo. Ah, ho capito Pippo io l'altra volta, allora mi sto rincoglionendo, avanti Claudio. Ciao Marino, buonasera, ciao anche a Giulio. No, Filippo si chiama, io lo chiamo Pippo. Un altro me, peggio il canedoio. Tu immaginate che mia moglie ha deciso di non portarlo più. Ha deciso di non portarlo più da quando io sono a casa, perché tante volte ha rischiato di cadere, perché tira e tira, ho preso. Cani robusti sono, bisogna stare molto attenti. Ciao Giulio, buonasera. Tu pensa Claudio, questo qua io, il cane mio, non è cane mio, è cane mia figlia, è un cane corso, che ha fatto 2 anni, lunedì ha fatto 2 anni il cane corso, 2 anni, ma 80 kg pesa, pesa 80 kg, adesso mercoledì dovrebbe partire, ci va mia figlia, mio genero, ci va anche mia moglie, mio nipote, io posso andare perché sono malattia, ho questo ginocchio, che non posso neanche camminare. Va in Germania, fanno da mercoledì una settimana là, fanno le cose legali in Germania. Grazie a Dio ha vinto pure il coppe, un po' di medaglie. Ma è un cavallo. Un giorno lo sto portando fuori, mi ha tirato il braccio, ho visto le stelle. Questi giorni quando ho il ginocchio così non lo sto portando, perché ti gira e tira, è un cavallo, avanti Giulio. Ok Maria, infatti stavo chiedendo a Claudio, anche lui fa fare dei concorsi di al cane, non so su improntati su cosa, sulla forza, sulla bellezza, questo non lo so, ce lo dirà lui adesso, anzi probabilmente ci siamo un pochino sovramodulati Maria. Avanti qua, spiegami tu, fa dei concorsi anche il tuo cane, vero? Sì, infatti, però quello di Marino, anche quello lì è un morosso come il mio. Sì, il mio fa le gare di tiro Marì. Quando era più piccolo ha iniziato con 30 kg, poi con 50, praticamente le mettono la pettorina, il carrellino, e l'ultima l'ha vinta ad Alghero, una l'ha vinta a Oristano, adesso deve fare l'ultima prova perché il mio praticamente, chiamiamolo addestratore, che poi non è venuto ad addestrare perché Filippo è nato così, dobbiamo tirà, infatti il tuo anche di tireo era 600, a vederci i posti, sono convinto che la tira, guarda. C'è una forza allucinante e adesso deve fare prima di Natale, mi sembra, mi ha detto mio genero, perché lui che se ne occupa. Allora stanno, c'è un'altra gara da tiro oltre i 120 kg, quindi vediamo se passa anche questa. Non ruggiamo più Filippo, ruggiamo Parassaggio, proprio un cavallo, proprio un cavallo è Claudio, sono cani belli, non c'è nulla da fare. No, è questo lo stesso, è questo, tira una pazzesca, ripeto, mi ha tirato il braccio, ho visto le stelle, mia figlia ha detto, te lo porti tu, anche io manco, neanche lo porto fuori. Questi giorni con un malato, un colpo di coda al ginocchio, ho visto le stelle. No, anche lui ha fatto Cagliari, Oristano. Lui la penultima l'ha fatta a Porto Torres, lo stesso, ha preso una medaglia a Porto Torres, e lui ha fatto? Aveva fatto Sassia, lo stesso, a novembre. Adesso c'è questo della Germania, parte mercoledì, una settimana rimangono fuori, dai, rimangono fuori una settimana, rimangono. Già va bene, dai, almeno si svaga, questo cavallino già va bene, ogni tanto meglio che sia fuori. Avanti Giulio. Ok, infatti bisogna proprio stare attenti, con un cane che ha una forza del genere, sai, se ti trovo impreparato, non si sa mai, lo strattone che ti dà ti fa cadere veramente, già lo credo che ti fa male. bisogna essere sempre molto attenti quando si porta a guinzaglio un cane del genere, perché sono omicidiali, hanno una forza tremenda. E cazzo, glielo credo. Figurati, se attacchi una tombarella ti tirano una tombarella, grazie, come facevano una volta i cavalli, con 15 quintali ti lavano. Se attacchi anche su cani ti tirano a te, se ti lo dire. Ma se te l'ho detto giuro, non ti ho mandato a te la foto. Allora porta il soffietto che è in legno, non so se te la ricordi, quella che aveva messo mia suocera, che una porta veneziana in legno, no? Che si usavano prima, ma come se facciato lo vedro, a chi non è plastica. È arrivata gente, Marin, siccome lui rompe palle, sta sempre sopra, quindi non mi ricordo, forse no, l'amministratore è venuto del condominio. Di solito non entra mai, solo che era presto, l'ho detto, ehi, ti faccio un caffè. Oh, sempre in alto, sempre in alto. La mia cosa è, anziché chiuderlo nel poggiolo, no? Che se lo chiudo il poggiolo si incazza, tu, adesso lo chiudo in cucina e ho chiuso la porta a soffietto. Una porta a soffietto che è pesante, insomma, bella robusta. Di canto sei incazzato a Claudio Serrato Trento, sei passato in mezzo alla Ianna, Marino, mi ha spaccato la porta in legno, la porta a soffietto in due, è diventata due ante. Gli è tacito, è un cavallo, questo è un leone, no, ti stavo dicendo, a me il braccio me l'ha girato, perché c'era mia figlia che c'ha la macchina rossa, no? C'ha la macchina rossa, è passata una via qui in campagna, è passata la macchina ruia, ha visto la macchina, ha iniziato a tirare questo cane, non potevo mollarlo, sono qua, chissà che casino faceva, chissà cosa, lui era convinto che era mia figlia. Faccio mio nipote che è un vasabessa, mio nipote è nato, diciamo, da piccolino, ce l'abbiamo dunque, il mio nipote, la Dora, guai se ti avvicina mio nipote, le mie siamo addosso, guai che ti toglie la dentiera proprio, la bava ne scende, guarda, è pazzesco come cane, è bravaccio, lo vedi, è un cane, lo sai, come magari il tuo, se tu lo vicino, è un cane bravaccio, però logicamente se vedi, lui è cosa, sai cos'è, già lo sai dove abito io, più o meno, là. E da Marina adesso hanno dato i marini, ci sono tutti quelli di colore, quando passo davanti al cancello e lui si affaccia alla veranda di mia figlia, la bava, proprio la bava, forse ho l'intero ubriaco della razza, non so, proprio la bava, se apro il cancello guai, se li mangi, avanti giù. Ok Maria, hanno uno quattro i cani. Tu pensa una volta, Maria, ti ricordi quando c'era mio fratello lì nel porticato di Vianura, no? Aveva la bottega, la falegna medialino, e lui aveva un cane, però questo era cane da caccia, quello che aveva mio fratello, lo chiamava Lola, si chiamava questo cane. Ha preso un pezzo di pelle di coniglio, l'ha fregato ogni due metri da bottega sua a bottega mia, no? La fregava per terra, ogni due metri così, ma una trisciata volante mentre camminava stesso. A un certo momento mi fa allora, vai Lola, cercalo. Beh, lo sai che questo cane è venuto da me in bottega e ha trovato il pezzo della pelle di coniglio nascosta dietro un mucchio di legname. L'ha trovato, una cosa incredibile, hanno un naso spettacolare questi animali, veramente in gamba. Adesso capisco quei cani che scoprono quelli della droga, eccetera. Cazzo, ma un fiuto straordinario. Un pezzo di peli di coniglio secca, ma secca tra secca, fregata per terra, e lui è riuscito a arrivare in bottega e è andato direttamente nell'angolo dove c'erano tutti i rattagli di legname e ha trovato la pelle, per dire, no? Oh bel fitto del cane. Allora tu immaginati che quando mia figlia arriva dal lavoro, no? Tardi, mezzanotte, magari che è in chiusura, lui, quando noi ci andiamo a letto, si cuoca praticamente dalla parte, no, del letto, dove l'anta, lui sa che attacca al muro l'altra, c'ha un lettino lì, glielo metto la notte solo però perché così lo voglio vedere, e una ne ha nel salone che già l'hai vista, no? Lui sente la macchina di mia figlia quando inizia a avvicinarsi al cancello, capito? Sente proprio la macchina, va, tutti i diesel sono uguali, no? E do sa che chissà, e non si sbaglia, E dico a mia moglie, Ilaria sta rientrando, ma vai, Ilaria sta rientrando, vedi che Filippo se n'è alzato nella porta, ed è meravigliosa, non c'è Cristo. Poi, come dici tu, Marie, tutte le macchine nere, mia figlia c'ha la 147 nera, tutte le macchine niente, paedo, giochisci, però attento, sono uguali a quelle di mia figlia, nere però devono essere uguali a quelle lì, non è chi imbaglia macchina, no, ghiscia macchina, quella, lui se vede un'altra 147 nera, si butta e se la barizza a dire, ma riesce a vedere se lei, non è lei, però intanto si punta a chi ha conosciuto la macchina. Allora, queste chiavi, Claudio, le manca solo la parola. Quando io adesso la malattia, mia figlia andava a lavorare, lo trevo io sopra, diciamo, là, e io la facevo apposta, ero sul divano e lui aveva il suo materassino appoggiato. Insomma, esce verso le 6:30, le 7, fa le sue cose. Non è vasi, non in casa, in casa l'ha fatto una volta, insomma, aveva un mese neanche. Mia figlia gli ha fatto vedere, non ha fatto più nulla, anzi resiste anche troppo, confuso il cane. Beh, a quell'ora se lo fa lui, io faccio finta di essere addormentato, prende, mi tira il golfo, mi mette proprio, oppure mi tira la mano, mettimi con la bocca, attaccata la mano, e mi tira fuori la porta. Tu dimmi cosa, boh, solo diciamo solo la parola, le manca solo la parola al cane, che sono troppo intelligenti, non vengono da lì va. L'altra volta c'era mia moglie sopra, ha visto uno nel cancello, neanche le scale ha visto, non ha visto neanche le scale, ci sono 24 galline, io abito ormai più sopra di mia figlia, al piano di sopra, no? 24 galline neanche visti là, proprio la bava, proprio, sicuramente, siccome c'è una badante di colore, che prende dietro il campagna, la prende e c'è un cagnolino che la accompagna a ferma là. Lui come passa questa qui, si guarda la vetratta, mia moglie apre le cose e si fa la picchiata, si fa, mi manca solo la parola. Avanti Giulio. Ok, sono bei animali questi, veramente, sono veramente in gamba. Così già vanno bene, sono da apprezzare. Ma penso lo stesso che magari sono dei cani bimbi, ma secondo un modo come si educano anche sono i mariti, perché se no il cane alle volte se lo fai scemo cresce scemo, se lo fai male cresce cattivo, se invece lo educhi bene ti dà anche delle belle soddisfazioni, e non a caso tante volte il cane ha salvato anche delle persone, certo, ma in effetti è così, va bene, riprendi qua. No, ma tutti i molossi mari sono così, perché ce l'ha anche mio genero, un presa canario che è enorme, è alto quanto la lana, ma pesa 85 kg, un mattesi. Penso che sia come forse più alto del tuo, ma come stazza grosso come il tuo, ed è bravissimo. L'importante è che non tocchi a lui, oppure ti avvicini dove lui, nel garage, a casa sua, alla macchina di rubadrono, perché t'ammazza, è un cane che c'è una forza allucinante. Filippo è buono dentro casa, è come che non ci sia, è un gatto, perché lui mangia, dorme, russa, sai che sono rientrato un quarto d'ora ed è già dormito sotto la televisione, e più lo aumenti la televisione, più le sollevi la TV, Marie, quello che dà fastidio a me, no? Lui più dorme. Per esempio, le piacciono molto le partite, quando ci sono le partite che parlano, oppure le canzoni. Io ieri stavo guardando quel tale quale che mi fa morire. Edo era dormito un poco. Le piacciono molto le canzoni, sta sempre lì, sotto la TV. Lui sta lì anche adesso, perché c'è mia moglie che sta guardando la televisione, non si stacca un attimo da mia moglie, la segue passo passo dentro casa. A volte dice, ma cosa sei, figlio? Un gatto, vattene al posto tuo, cosa ci fai? E invece la mette sempre appresso. Come noi spegniamo tutto, lui c'ha la luce di cortesia, segue la luce di cortesia e si corica vicino al letto, sotto, no? Vicino al letto. Come sente che qualcuno si avvicina alla porta, parte e si siede vicino alla porta, come a dire, entra, prova a entrare a vedere che ci sono io. Anche quelli delle pulizie. E la mattina che arrivano alle 6:30, alle 7, il lunedì mi sembra, il venerdì, due volte alla settimana. Oramai lo salutano dalla porta, ciao Filippo, dietro la porta sì, e tu abbaggia, come ti dici, già sono qua, si prova a entrare a vedere. A chi una bigliana, vedi? No, sono intelligenti, figurati che quel cane di mia figlia è nato, diciamo, noi ci abbiamo un gatto c'è la mia figlia, un gatto ci abbiamo noi da piccolino, nato, non ci credere, c'è stato un periodo che c'era che il cane stava male, il cane, non so, a capo l'ha preso. Beh, lo sai che il gatto gli stava addosso, lo puliva, lo leccava, era tranquillo. E quando il gatto stava male, lui faceva al contrario. Al contrario, capito? Ogni tanto le rompe le balle, allora il gatto già lo sai fare le zampatte, allora lui va e si colica nel suo coso. Sono abbastanza in gamba come cane, già. C'è, ma ci può capitare, questo mangia crocchetti, un certo tipo di crocchetti, altra roba mia figlia non era, carne macinata, che sia carne di gavardo, altra roba non vuole dare nulla, perché altro il veterinario paga lì, sono cani delicati, non c'è nulla da fare. Questo è della... E il cane corso di coso, come si chiama? Lavare la pietra, tu guarda sull'internet, lavare la pietra e c'è tutta la famiglia, padre, figlio e così via. Avanti giù. Ok, sono belli animali, veramente belli. E gli esseri dimenticano, non si dimenticano né la voce, né gli odori, non si dimenticano niente, sono anche a distanza di anni poi se li conoscono sempre. Sono fatti così, è nel loro DNA. Infatti hai detto bene, l'unica cosa che le manca è la voce a questi animali. E vabbè, dai. Vabbè, dai, io devo scendere per la cena. Oh, Maria, ci sentiamo eventualmente domani mattina, non so. Se ci sei, magari ti farò una chiamata. E anche Santa Claudio. E vediamo qua nel 27. Insomma, dove ci troviamo, non è un problema quello. Adesso, siccome oggi siamo di brodo, per cui è meglio mangiare la calda subito. Ci sentiamo. Ciao, mi telefono, mi. Vabbè, ti sono chiamata Barazzera. Arrivo. Ok, ciao Cla, grazie per la chiacchieratina. Ciao Maria, ci sentiamo, dai. Ciao Maria, alle prossime, saluti in casa. Mi prendi Cla, ascolto il finalino, poi chiudo. Mi hanno già telefonato per la cena, ok? Ehi, ciao Giù. Buonanotte, buon tutto, ci aggiorniamo domani, dai, ti faccio salutare da Marino, vai Marì. Sì, ciao Giulio, ben sentito, saluta la signora e la signorina, ci vediamo domani se in casa, dai. Ok, avanti Claudio. E allora, è finito di lavorare, no? La gennaio si è a casa, cosa da fare? Se scendi in campagna ti metti a zappare. Me lo stavo dicendo da Giulio l'altro giorno. Pensala come ti vuoi tu, però Marì io, non lo so se resisto, non lo so, ho già chiesto all'amministratore l'altro giorno, mi ha detto ascolta, ma non c'è possibilità di darmi qualche condominio, scontiamo qua, non voglio niente, non mi dai niente, giusto così per ammazzare un po' la mattina, beh ma lì tu, ti faccio sapere, che mi sto annoiando Marì, la mattina è un bel lunga, stamattina sono uscito ed è sabato, fortunatamente è tutto aperto, mia moglie mi ha detto ci vai a prendere un po' di cose, ok dammi, fammi l'elenco, esco io, faccio io, poi sono rientrato, lei stava pulendo, e ho detto ma non c'ho niente da fare, io mi se vuoi mi puoi pulire i vetri, mi sono messo a pulire i vetri, giusto così per fare qualcosa, capito? Quindi è molto lunga, io abituato a impegnare la mattina come te che ci attiamo presto, capito? No, non lo so, sarà dura però. Mi tocca e devo fare, poi adesso vediamo un po', se riesco a trovare qualche cosetta da fare, almeno la mattina me la impegno, perché poi io uscivo, arrivavo a casa a 2:30, 3:15, quindi la serata un riposino, una cosa e l'altra, poi alle 5 adesso è già buio, perciò alla fin fine non è che la serata già passa, è la mattina che è lunga, Marì, capito? Ti devi sfogare, se no mi metti ricoglionito e la prendi male, no, la mattina in effetti, guarda, tu non ce l'hai, io sono quasi un mese a casa, un mese, mi ho tolto i punti ieri a venerdì, mi ho tolto i punti dall'ortopedico, sono salito con le stampelle, per poco si incazzava, mi ha detto ma stiamo scherzando, prendi le stampelle e buttare via, ti voglio vedere camminare da solo. Ho fatto intervento una settimana ieri a Cagliari e mi ha operato questo Giovanni Angiolini, che lui faceva il laboratorio in via Caso alla Betta, gli interventi lui le fa a Cagliari, va a Roma, Tempio e così via, e sto iniziando a fare un paio di passi senza stampelle, logicamente mi fa male, logicamente il ginocchio era messo male, mi ha tolto il menisco e poi c'ha tutti gli altri colpi che ho preso da prima, no, tu già lo sai, prendi un colpo, ti metti un po' di crema o ti viene una pastiglia, ti passa e continua a lavorare, logicamente, come facciamo tutti. guarda, mi ha fatto fare l'intervento che ha fatto, già l'ho visto quando mi stavo operando, ho visto, mi ha messo lo schermo vicino, questo qua, e mi spiegava tutto quello che c'era. Poi ieri mi ha fatto accompagnare mia figlia, ha girato il computer e mi ha detto guarda quello che abbiamo tolto, così, così, così. Dunque le stampelle buttale via, devi camminare piano piano, devi camminare dritto, se no ti ritorno la gobba, adesso ti fa male, poi piano piano già ti passa. E ti sono, cioè, sono un mese a casa, sono in una gabbia di leoni, non riesco a fare nulla, cioè la campagna è incasinata, mio genero lavora diciamo a Sigma, fa gli orari, tutti i balordi, non riesce neanche a fare nulla, faccio la campagna, non me l'ho mai vista la campagna così messa male, guarda, sono nervoso, pazzesco. Speriamo che riesca a camminare bene, a fare qualcosa, sono guai. Maria, ma devi dare il tempo. Ah, non vedi che ti ha operato giorno? Mia nipote è molto amica di Giovanni, perché quando era a Sassari, anche mia nipote, la figlia di mia sorella, lavora in ortopedia, capito? Lavora in ortopedia. Ma Giovanni è quello del Grande Fratello, quello lì ti ha operato. Esatto, Giovanni con il Grande Fratello, sì. E io sono andato tramite un amico di mia figlia, quello uno che c'ha i cani, diciamo, che è molto amico intimo suo. E se no l'intervento sinceramente dovrebbe essere, è anche raccomandato, entro il 20 di novembre. Invece lì ho fatto la visita a lui, gli ho portato tutto la risonanza. Lui mi ha fatto appuntamento per il 20, la domenica c'era questo qua a casa, stava prendendo a casa con mia figlia e mio genero, e lui, non dico balle, lunedì mattina sono andato alla dottoressa a allungarmi la malattia, alle 2 mi ha chiamato già all'ospedale di Cagliari, che mercoledì doveva essere a Cagliari, dove, guarda, ho preparato tutto, ho detto a mia moglie, io ho preparato tutto e stiamo già partendo, guarda. Non ho utilizzato neanche la macchina mia, ho chiamato a Panai, mi sono fatto accompagnare direttamente a un B&B che mia moglie aveva già parlato, abbiamo prenotato, sono il giovedì, il mercoledì sono andato, il giovedì sono andato a fare tutte le analisi, venerdì mattina ricoverato, alle 11 sono entrato, alle 4 ero giù, non ti ricordo, poi mi hanno dato a mangiare verso le 6:30, 7, lui è passato. Guarda, mi sono alzato, sono andato a prendere il caffè, che avevo voglia di un caffè, guarda, perché mi sono alzato subito, qua a Tampera mi sono alzato, prendiamo caffè, perché avevo voglia di caffè, io col caffè sono drogato. E lui si è incazzato quando sono andato con le stampelle a fare la visita, buttare via le stampelle, se no te spacco nel fronte, sì, già è quello che è mio fratello, sì, già è lui, sì. Dottor Joe, è molto amico di mia nipote. Ma e cosa c'ha la... perché stavo dicendo appunto a mia moglie, mi ha detto sì, c'ha la clinica a Cagliari, privata. Sì, è una clinica, come si chiama? Villa Elena sì. E allora ho preso lì, anche la policlinica, dove è la policlinica? Per esempio, al policlinico c'era il padre di un amico di mio nipote, che è 6 mesi in attesa, e 6 mesi in attesa, e operano direttamente a Cagliari lo stesso. Guarda che c'è la gente da Tempio, da Alghero, gente da Alghero a operarsi a Cagliari, ma stiamo scherzando con gli ospedali che ci sono a Cagliari, con i medici di Cagliari, di Alghero. Ma sono scesi la braccia in terra. E quell'ambulatorio è in via Caso, si chiama Betta, e ci vanno quelli della Dinamo, e poi c'è una bella palestra dentro, tutte le ragazze che giocano a pallacanestro, pallavolo, vanno sempre in quella palestra. Lì c'è lui, Angiolini, Giovanni Angiolini, poi c'è Mulas, e c'è, come si chiama, e c'è anche una donna che visita, diciamo, una dottoressa, ortopedico. E sono abbastanza in gamba. A Mulas l'ha operato mia sorella l'anno scorso, a Mulas. A me mi ha operato personalmente lui, proprio, guarda, operando, parlando, ridendo, scherzando, poi è sceso giù nella stanza, guarda, è un coso, sono troppo in gamba come persona, è troppo in gamba. Ma io l'ho conosciuto di persona qua a Sassari, capito? Ho conosciuto a Giovanni. È molto bravo, figurati che io l'ho conosciuto quando ancora stava finendo il tirocinio praticamente, capito? Che era qua in ortopedia qua a Sassari. Poi ci siamo visti una volta ad Alghero con la ragazza, non sarà lei lì quella che ti ha, perché anche lei si è laureata in ortopedia, credo. e stava facendo il tirocinio, non so se l'ha fatto a Roma lì, quindi probabilmente quella ragazza che c'è sia la ragazza, insomma, là, che poi non so se sono già sposati o si devono sposare, forse no, si devono sposare. Bravo, Giovanni è molto bravo e non è di quelli che sta lì a pensarci due volte. Sì, lo sapevo, me l'aveva detto mia moglie che appunto c'aveva qualcosa a Cagliari e poi sta a Sassari anche e poi a Roma soprattutto. Esatto, a Sassari in via caso è a Sassari, c'è scritto Betta, e in via caso. Guarda che lui quando è uscito, parlato da questo amico mio, di mia figlia, quando è uscito dal Grande Fratello, con tutti i soldi, qualcosa che era riuscito a togliere dal Grande Fratello, lui l'ha usato per studiare, lui ha lavorato parecchio, ha lavorato, era a Roma con l'ortopedico della Lazio, a Roma, dunque insieme ai giocatori della Lazio. Poi ha fatto molta esperienza giù a, non so se era a Spagna o a Barcellona, e qui sta usando una cosa che ha fatto a Barcellona, diciamo, capito? Ti fa due buchi, ti fa due buchi di vasi, poi quando esci fuori ti vede il drenaggio, capito? Per esempio mio cognato è stato operato l'anno scorso a Alghero e il drenaggio non gli aveva messo nulla, invece lui mette il drenaggio, lui è anche mula, diciamo. Guarda, non ha inteso nulla, zero e porto zero. C'ho qualche dolorino adesso quando sto muovendo ovviamente il ginocchio, adesso piano piano, mi ha detto le stampelle e buttare via. Devi chiamare, t'ho detto, devi camminare, t'ho detto che devi camminare come di prima, devi camminare e basta. Dicevo, ti fa male, però piano piano, fai un po' giù, un po' domani, devi camminare. Quando sono andato per la prima visita, gli ho detto così così, mi ha fatto una signora visita, mi ha messo a faccia a terra, mi ha girato il ginocchio, tutto quanto. E lui mi ha detto, tu c'hai questo e quell'altro, e mi ha segnato nella visita. Quando gli ho portato la risonanza, gli ho fatto la risonanza da mula via Roma, c'era la stessa cosa che mi ha detto lui, e mi ha detto, la vedi? Cosa ti ho detto? Così così così. E così mi ha fatto l'intervento, grazie a Dio, ripeto, sono andato venerdì con mia figlia, mi ha tolto i punti, mi ha fatto una visita normale, mi ha detto, allora, ci vediamo se in caso fra 30 giorni, se hai bisogno, insomma mi chiami, non c'è problema. E ha capito, guarda, stava parlando alla grande, è troppo bravo e gentile dopo. Oh, ma è bravissimo, c'è un'esperienza allucinante. E poi sia che ti puoi girare, hai visto quanto è grosso Marì? È grosso e alto, se tu lo vedi a Cagliari, sul del reparto, lo adorano, è pieno di vemme, ne ho preso, ma quando io ero, prima di entrare in sala operatore, siccome gli ho detto, cazzo, mi avete fatto cagare, guarda, mi hanno tenuto un'ora fuori, mi ha messo l'infermiere mi ha messo la farfallina, ma che cazzo la chiamano, poi è venuta quella lì, mi ha fatto le domandine, tutte cose, no? Siccome io a casa uso un macchinario, siccome vanno a Pinnea uso il macchinario, loro chiamano i cipacchi, no? E lo usano di notte, se no vanno a Pinnea e la mattina mi alzo male di testa e via. Lo stavo dichiarando, gli ho dichiarato. E sentivo questi rumori di scarpelli, un barino della motosega, tagliente, un odore bruciato, che loro fanno tutto il zanitelaggio, no? E io un mese fa mi ho tolto dei porri, diciamo, da cosa, in via Montegrappa, e sentivo lo stesso odore che mi ho tolto i porri, anche lui l'ha fatto con l'ase, un fiero bruciato, gli ho detto, guarda, non ho avuto nulla, mi state facendo cagare qua, letteralmente, solo della roba che ho sentito, sembrava una motosega, scarpelli, boh, un po' il casino, e lo sentivi scherzando con le ragazze, tutto quanto, boh, ha detto, è proprio una bella famiglia, proprio, là non c'aveva anche la radio accesa, e già si stavano divertendo poco intanto, sì, ti metti a tuo agio, capito? No, ma Giovanni è una persona squisita, sto dicendo, sì, è una luce di femmine, ma oramai deve fare da bravo, se no la ragazza le taglia la testa. Tanto già è poco gelosa, è molto, trovate, un amico di mia nipote, perché hanno lavorato, quando lui era a Sassari, hanno lavorato in un reparto assieme, capito? Quindi si conoscono. Infatti mia moglie non andava mai all'ospedale, no? A trovare la nipote. Da quando lui era Giovanni, era sempre in Chivi, cercando la nipote, capito? Con l'accusa di cercare la nipote, ma di farvi da conedo. Sì, anche mi vedeva quella sarda. Aspetta, mi faccio la foto, hai fatto la foto, gli ho detto. Figurati. No, no, già è abbastanza in gamba, no, già sta scherzando sempre con quelle ragazze infermiere e così via. Poi c'è la doppia, insomma, di gola sto crepando, mi sta fischiando la gola, c'è la forza di antibiotico, ma non mi ha fatto nulla, da ieri sono. E con, l'ho chiamato l'altro giorno, guarda Mari, sto partendo da Roma per interventi, ti mando, ti faccio chiamare la mia segretaria, una cittadessa mi ha chiamato, mi ha dato appuntamento, tutto quanto, una cittadessa pazzesca, guarda, no no, solo per quello, ma dov'è la stecca bianca poi la specie civile, prima? All'ospedale, la specie civile, forse che dov'è tu, quello nuovo qual è? Sì, sì, lì, dove praticamente c'è anche l'oculistica. Ma non ti sei accorto di niente? Guarda, ha iniziato il vento, come c'era scritto su internet, il vento 27 km orari, maestrale, e allora domani ci sarà questo temporale, mia mamma, infatti già il ruacone perché sta entrando un bel di aria. Sì, nella stecca, in quella nuova, là era. E nella stecca bianca, quella già è in chiri. Guarda, ieri c'era il mondo, tutti da lui stavano andando ieri, boh, niente, femmine, vabbè, femmine maci, diciamo, là. Ieri era proprio da morire, io avevo portato dalle 3:30, sono entrato alle 4:30 passate, sono entrato, figurati, e ne aveva, e c'era la segretaria, una segretaria a fianco, diceva, guarda, mi rischio oggi in ritardo, o ripassate più tardi, oppure rimandiamo la visita, figurati quante le persone ci avevano. Sì, sì, sì, ma è così, ma anche quando era lì all'ospedale a Sassari era sempre piena l'ortopedia, capito? Sembra che vera Giroedo come te medico, e poi lui ancora praticamente non poteva operare, ma ti parlo di anni fa. Adesso invece sicuramente c'è l'abilitazione, infatti era andato via, se ti ricordi, dal Grande Fratello, proprio perché doveva finire il tirocinio per prendere l'abilitazione, altrimenti era un casino, capito? Infatti ha rinunciato al Grande Fratello per finire praticamente il tirocinio e avere la specializzazione, se no non poteva operare. E bravo, bravo, in gamba, una persona molto, molto gentile, capito? Va bene Mari, dai, così ti riposi un po' la voce, dai, fatti sentire domani, tanto io ce l'ho sempre accesa questa, oramai facciamo sempre, quasi tutti i giorni facciamo due chiacchiere qua con Giulio e gli altri, capito? Mi fa piacere. Ok Mari, vado a cenare, dai, un saluto e riprenditi in fretta. Cantonai ancora? Ehi, Nagio, un bello poco. Allora, 30 giorni dalla settimana scorsa, fino al 27 per il momento, fino al 27, poi vedremo. Ma guarda, io appena mi sento bene, quando riesco a camminare bene, logicamente, no, se mi fa male rimango a casa perché non me la fotti nulla, Io il lavoro mio, lo sai, tutto a piedi, devo camminare molto a piedi. Fino a quando cammino bene, non rientro, tanto è inutile entrare e poi mi tocca... Mi tocca andare il momento in cui è malattia, no? Per il momento fino al 27, poi si vedrà. Ok, ne approfitto Claudio, saluto in casa. Ci sentiamo domani, dai. Ok, quello che per me. Ciao ciao Claudio, a domani. Ciao Mari, a domani, va bene, dai, a domani. Ciao ciao. Ok, ciao.